preso una nessuna eco messo ne una nessuna e mo contenuna nessuna e to we cosone manni cosa nessuna dai ne me contaie suo Say no one. sentivo nasci. Ma la Thank you.